finisce la lezione. Sei solo chiacchiere, sei solo chiacchiere. 22:49 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa. Innanzitutto ricordiamo a tutti e a tutte la tre giorni della radio, ormai siamo nella imminenza, si tratta di aspettare qualche ora, poi già da venerdì apriremo le danze, come si suol dire. Quindi 45 anni di Radio Onda Rossa alla ex Snia Viscosa, 20, 21 e 22 maggio. Visitate il sito della radio www.ondarossa.info, troverete senz'altro in prima piano sul banner quello che è la nostra campagna di radio abbonamento. Il 30 per 1000, 30 euro per 1000 di voi significa un anno di Radio Onda Rossa. Quindi di tutte le cose che produce, chi ci sta, chi non ci sta, anche chi viene invitato, come o si autoinvita, diciamo. Perché vabbè, insomma, fanno le irruzioni come il loro stile e come anche il nostro piacere. Comunque. Dicevamo www.ondarossa.info, ci trovate tutto quello che c'è da sapere sulla radio. Ci trovate i podcast delle trasmissioni, le rassegne stampa, i redazionali, le corrispondenze. Insomma, se volete ascoltare la radio al di fuori dei momenti in cui la radio va on air, come si dice, in onda, avete possibilità di recuperare quello che avete perso. Nonché, dicevamo, c'è il banner che lancia la campagna 30 per 1000, ci sta pure la storia della festa di compleanno di Radio Onda Rossa, troverete il programma completo. Essenzialmente ve la riassumiamo così: venerdì 20 maggio dalle 18 per i ROR, dalle 21:30 in concerto Fulcro Kento, Serpe in Seno e Scasso. Quindi spaziamo fra la trap e l'hip hop. E lo ska reg. Invece sabato 21 aperitivo Aperirore dalle 18 alle 21 proiezione del documentario di Domiziana di Fulvio Sister Wood, e dalla Gran Bretagna ritorna per la radio Ora sì avremo modo di ascoltarla poi magari più tardi anche come sottofondo della chiacchierata che faremo con gli ospiti. E poi entrambe le serate ci hanno l'angolo Mojito fino alle 2 di notte con Siletta, reggae, pop, cumbia, funky live a sorpresa. domenica dalle 11, quelle che erano le assemblee radiofoniche della radio si ripropongono, ma in diretta, quindi sugli 87.9, ma anche dal vivo, quindi dalla SNIA si parlerà di rifiuti, energia e quali battaglie. Poi alle 13.30 il pranzo sociale e alle 18 di nuovo assemblea pubblica sul piano Gualtieri sui rifiuti. Ci saranno i banchetti della radio, insomma, e ovviamente la postazione dove trasmetteremo, insomma, la festa della radio, dai, non ve la sto a raccontare troppo, la conoscete. Allora, prima ve lo dico, ve l'annuncio, poi fra qualche minuto gli apriamo i microfoni, non so se vogliono intanto salutare subito. Ci siamo, vai. Adesso. Ah, ok. Allora, mo ho salutato prima, non riesco a rifarlo un'altra volta. Rifallo. Sei imbarazzato. No, non ti vergognare, questo è un microfono aperto, è libero. Sono stato così sociale, socievole, così ben disposto verso il pubblico. Che ti allo spento il microfono. Esatto. Io invece no, non vi saluto. No, vabbè, è sempre l'insegna del politicamente scorretto. Scorretto. Ok. Dicevamo, abbiamo adesso una comunicazione da fare, una telefonatina, perché in corrispondenza proprio alla festa della radio. Dicevamo, in corrispondenza proprio della festa della radio, venerdì ci sta invece una serata rock and roll che così non possiamo non coprire. Anche se poi vedrete che ci sarà un rimando in qualche maniera alla radio, alla festa della radio, quindi qualche secondo facciamo questa telefonatina e poi con la morte, l'abbiamo detto, con la morte. Allora, vediamo se ci sei. Pronto, ci sei? Ciao Fefo, ci sono. Ciao a te, tutti i compagni all'ascolto. Bene, allora, Lorenzo, Wendy, ci conosciamo, ci sentiamo da tanti anni. Sai che appunto stiamo festeggiando i nostri 45 anni e insomma segui la radio, partecipate eccetera eccetera da diversi lustri, da quasi l'inizio della radio. Ci tenevamo perché dicevamo prima appunto proprio in coincidenza del venerdì dell'esordio della diciamo, festa della radio. Dell'esordio della festa della radio, però siete riusciti a organizzare una serata qui a San Lorenzo proprio, no? Con i Wendy. Sì, venerdì dopodomani al Comune, Scalo San Lorenzo 33, suoniamo noi Wendy e i Blood 77 di un altro amichetto nostro, Simone Luzza. Certo, certo. E, vabbè, quindi riproporrete insomma quello che è ormai un datato disco, che è uscito già da un paio d'anni, no? Se non vado errato. No, da meno. Da quest'estate, sì, era in preparazione, però era in preparazione da tanto tempo. Sì, da quest'estate, sì, ricordo. Poco prima dell'estate, se non vado errato, insomma. Sì, l'abbiamo presentato da te pure. Sì, era, sì, estate 2021, insomma. Sì. Adesso sta per uscire pure in vinile, ma ci stanno facendo aspettare un sacco di tempo. Doveva essere pronto il vinile a questo concerto, ancora non ci è arrivato. Accidenti. Ci hanno detto un sacco di problemi per la guerra, quella, mancano i materiali, ma insomma ci stanno a far sospirare questi. Sì, certo. No, ma comunque dicevamo, affrontavamo già questo problema appunto della difficoltà a pubblicare su vinile, che non è soltanto la vostra, insomma, comunque è un problema comunque che esiste. Poi è chiaro, te promettono il mondo, però. Ma noi stavolta ci hanno fatto aspettare veramente tanto, perché sono 7 mesi che ci dovevano dare sto vinile. Poi avevano detto aprile arrivava sicuro, e invece stiamo a maggio. E ancora. Se troviamo a suonare venerdì senza le copie, senza che le volevamo portare. Accidenti. Arriveranno, a questo punto hanno detto 2 settimane, arriveranno. Se qualcuno è interessato ci contatti, insomma. Certo, appena possibile. Poi, ma penso che tra l'altro ci rivedremo qui, no? Perché domani c'è questa data, dicevamo, in concomitanza, ma speriamo che si riesca a fare tutto. Noi venerdì facciamo essenzialmente trap, hip hop, reggae, quindi non andiamo direttamente nel campo vostro, anzi. No, diciamo, ma poi c'è stata proposta. Natale astinenza da concerti, certo. Questi 2 anni di Covid, che tanta gente spero si faccia un salto di qua, un salto di là. Sì, bravo. E poi noi facciamo rock and roll pancheggiante, voi fate altra roba, poi si può passare di qua e di là, certo. Oppure venire. Sì, si va avanti fino alle 2 di notte, poi con la dance hall lì alla SNIA, quindi anzi vi aspettiamo, non so se adesso magari venerdì ce la farete nel dopo concerto. Se la facciamo dopo concerto possiamo. Se non c'è pure sabato e possiamo avere più facile che casomai sabato. Perché se calcoli che una volta finito dobbiamo andare a scaricare gli ampli e tutto, più facile magari che facciamo un certo sabato. Va bene. Comunque, insomma, chi fosse interessato a un po' di rock and roll cazzuto, sì. Blast 27 e Wendy venerdì sera dalle 10 in poi al Comune a Scalo San Lorenzo. Allo Scalo San Lorenzo. E poi penso ci risentiremo più in là verso giugno, perché c'è un'altra chicca, insomma, una cosa che poi chi sta dentro alle cose già sa, però no, ci dovrebbe stare qualcosa di importante a giugno. Stai parlando esatto. Del ritorno dei reduci? Il ritorno dei vecchietti, dai. Sì, sì, ci sarà questo a Roma, a Parco Schuss, dove per l'occasione ho rimesso su i Bloody Riot originali con un paio di amichetti che canteranno al posto di Roberto, che certamente la serata è una reunion anche in ricordo di Roberto, che ci ha lasciato nel 2016. Canteranno proprio Simone dei Blood e Valerio Lazzaretti, che è un altro amico storico dei Bloody Riot, e si divideranno i brani di Roberto. Va bene, dai, e comunque avremo occasione di ripetere questa cosa per domani, per venerdì appunto Comunia, quindi Blood 77 e Wendy, e poi magari ci incontriamo pure alla festa della radio, dai. Sì, ci becchiamo sicuramente questi giorni. Okay. Grazie Fefo, saluto Bella. Tutti. Ciao, ciao, a presto, ciao, allora. Ciao. Ciao Fefo, a presto, grazie. Allora, ci siamo, eccoci qua. Ci dovremmo essere ai microfoni, quindi, con Alessandro e Ciccio, che sono la morte. Ne abbiamo più che parlato, sì, un po' pure parlato, però abbiamo scongiurato. Vi abbiamo ascoltato, sparlato. Vi abbiamo infilato, inzeppato più o meno a vostra insaputa dentro le playlist, dentro i Trip Virus, insomma. No, non è vero, insaputa, perché poi ti chiedevo le tracce, insomma, mi dici come si chiama quella. Io te le mandavo, quindi c'è. È una cosa, quindi, che già è insaputa, ottimo. Quindi la sorpresa è fantastica. Solo te non lo sapevi. Esatto. Vabbè. Penso abbiamo fatto 100 milioni di likes. Io ne ho contati solo 10, no? Ok. Vabbè. C'ho ancora problemi. Se, contare le cose è molto relativo. Se dipendesse da, da come si spigna la radio, diciamo le cose, avremmo svoltato da qui a. Ma, mamma che. No, invece probabilmente sti likes dipendono da voi o no? Come nasce, dai, sto progetto La Morte? Quindi tu ci chiedi come nasce La Morte? Come nasce La Morte? Okay. Ho letto adesso, veramente potevamo pure parlare di un'altra cosa importantissima, che era il cesso di Aria Onda Rossa, no? Ma, che cioè, cesso proprio storico. Cioè, io so anni che cago, piscio e vomito a sto cesso. Cioè, ma questo è veramente un cesso con la C. Non te lo faremo, non lo puoi più fare. Certo, adesso mi inibisci. Mi inibisco. Cioè, è un cesso in cui si fa la pipì. Certo. In piedi, si alza la tavoletta. No, esatto, da seduti, no in piedi. Beh, da seduti. Da seduti, come le femmine. Così si fa la pipì. E certo. Vabbè, perché è molto più igienico. Sei un diktat del comunismo. Farò la pipita certo. Da seduto. Ma no, quindi c'era pure il cartello una volta, no? Impare a fare la seduta, no? Guarda, e poi c'era una. Vabbè, guarda che a me sfondi una porta aperta. Io piscio seduto se vuoi. È bellissimo. Comunque il non so chi l'ha fatto, ma quello che hai fatto è bellissimo, amico. Amico hai, compagna, non lo so chi l'ha fatto, è stupendo. Cioè, quelle mattonelle mi mancheranno. Sì. Ma oggi sta. Come si chiama? Speriamo che duri comunque. Speriamo. No, tocca mettere sei lì e farlo 45 durare. Anni. Ma sì, dai, almeno altri 45. Esatto. Che sarebbe, almeno altri 45 anni. A questo punto ci aspettiamo una vostra. Diciamo performance al bagno, noi due chiusi. No, no, data la sorpresa, esatto, del cesso della radio, io penso che questa cosa sconvolgente. Comunque, ma perché quelli che vengono animi e ispiri qualche cosa. Ma non ci vengono a pisciare la radio, capisci? No, no, a voi, vuole una canzone, voi. Sul cesso qualcosa sul cesso della radio. Cazzo, la faccio quello tranquillamente. Che cosa è successo al cesso della radio? Esatto. Ma subito. Domani è pronta. Va bene. Fammi una base. Vabbè, dai, domani. Parliamo della morte. Da quale punto di vista? No. Allora, spieghiamolo, dai, la sintassi. Spieghiamo prima la sintassi, così. La morte apostrofato, quindi è l'apostrofa morte, è un nostro personalissimo omaggio, ringraziamento sentito, atto d'amore per Alessandro Bergonzoni, che ha appunto pubblicato questa silloge poetica che ci ha ispirato, insomma, la scomposizione del termine, il gioco delle parole, è pazzesco. Sì, e già qui quindi mi hai screditato Ciccio, che sembrava che se l'era inventata lui. Ma perché lui è Bergonzoni. Io so. Ah, lui è l'altro Bergonzoni. Lato Ciccio Bergonzoni. Francesco Bergonzoni, fratello del più noto Alessandro, che è anche Alessandro Fustensberg Bergonzoni. Fustensberg Bergonzoni, che però comunque sì, no, hai ragione, cioè. Tra l'altro siamo, no, non me l'aveva detta, non è che uguali. Se l'è rivendicata, l'ha taciuta. Guarda, come allora, verità quando ascolteremo tantissimo. Wikipedia, che è un pezzo di quelli che hai nella questa cosa è apertamente dichiarata, è stata scritta mesi fa, quindi con la morte nel cuore lo devo difendere a spada tratta. Va bene, no, semplicemente avevo omesso, come si fa adesso, no? Cioè, quando te dai una notizia, la dai, ometti qualcosa. Senti, e viene fuori un'altra obiettivamente notizia. Ve posso lasciare da soli, ma prendere una birra all'ottimo all'ottimo, vi posso lasciare da soli oppure ritorniamo, mi distruggerete come fate di solito. Esatto, no, di solito devi sapere, Ciccio partecipa qua dentro a questi linciaggi da quasi 20 anni. Quindi è la sua componente masochistica. 15 veri. Allora, mentre mi distruggete, io vado a prendere una birra all'ottimo. Frigorifero di Aria Onda Rossa, dai. No, rimani perché ritorno, ci devi raccontare la genesi. Ma il frigorifero è lo stesso. Ma già ti sei scolato una birra. Vabbè, era piccola. Vabbè, poi un'ora che siamo qua, dai. Cioè, vabbè. Abbiamo parlato con i Wendy. Allora, che salutiamo. Dai. La genesi è puramente casuale. Mm-hmm. Allora, lui si è preparato tutto un discorso in cui mitologico, in cui noi ci siamo incontrati in un'altra vita, ma in realtà è tutto finto. Però io vorrei che ne parlasse lui di questa genesi. Ah, mette piabbia. Mitologico. Vabbè, vi saluto e vi lascio. Allora, faccio una sintesi brevissima. Nel 94. No, in realtà è bellissima questa cosa. Ci siamo incontrati, ci conosciamo da un sacco di tempo, io e Stefano. Mm-hmm. Ci siamo incontrati musicalmente. Perché, diciamolo, comunque il milieu culturale è quello della capitale della cultura del Lazio Est, diciamo. Guidonia. Cioè, assolutamente. Certo. Guidonia è proprio è nota su Wikipedia, c'è proprio certo. la storia. Un quacervo proprio un humus del quale nascono certo. proprio. E no, che è successo? Che giocando con ho ritrovato su un vecchissimo hard disk una canzone che abbiamo fatto insieme circa 15 anni fa. Io guarda che ho trovato, io l'ho mandata una cosa. In realtà giocavamo a pallone. Anche giocavamo parecchio a pallone. E nonostante la pancia, diciamo la nostra. Esatto. Noi eravamo gli ultimi che sceglievano per i 15 anni di meno, però insomma pure. Adesso non so se è così edificante vedervi. Esatto. Allora, l'altro sabato, mentre aspettavamo la cirrosi epatica, esatto. mentre aspettavamo di entrare alla prova, sabato pomeriggio alle 3, che è l'orario giusto per un 45enne medio, ovviamente si è giocato a pallone dopo 5 anni che non lo fa. Abbiamo scambiato qualche passaggio. E non vi siete fatti male? Sì, sì, io non cammino proprio. Io ho qualcosa che mi prende dalla spalla. Guarda, fino al tallone, o è tallonite o è tendinite. Quindi. È stato un sacrificio pure mio, un po' qua, più totalite. Salire le scale della radio, infatti ci avete messo un sacco. No, sì. Vabbè. Vabbè, dai. Scale, tra l'altro ci abbiamo messo anche di più, dai. Probabilmente. Sì. Sì. Vabbè, comunque l'incontro è stato casuale. Nel senso, l'incontro odierno è stato casuale. In realtà è un rapporto simil amoroso che va avanti da quando siamo bambini, quindi. Lui era un po' più dark, un po' più meno dark, però in tutto sommato c'era un spazio per l'incontro pazzesco. Sì, sì, sì, c'è un bel margine di. Però diciamo, cambiando un po' le carte in tavola, l'abbiamo già specificato. Cioè Ciccio sì, canta, però con la morte canta di meno, scrive. Con la morte scrive di più. Con la morte scrive di più. Vero, guarda, che è vero. No, è vero. Si è scrive vero. Molto di più da quando hai incontrato la morte. Scrive non tutte, alle volte non è adatta, diciamo, non è proprio farina del suo sacco. Dai. No, ma ho fatto un par di cover. Sì. È quasi tutta mia farina, cioè, sì, paradossalmente. Sì, alle volte. Cioè, sì, rubacchio qua e là, però come ho sempre fatto. Però. Certo. Chi è che non ha mai rubacchiato qua e là? In diversi contesti. Poi, okay. Poi rubacchiare, diciamo, le idee che girano non è un reato. Rubacchiare no, altre cose. Porle tocca cura, poi insomma, in una maniera pseudo originale. Ma il discorso è che sì, cioè, è un periodo di. Fermento comunque per quanto mi riguarda, perché c'è il vabbè, mo non parlando di altre cose, parla però sto passando un periodo prolifico di parole, ok, quindi in cui la poesia mi accompagna più del dovuto e quindi ti viene facile. Sì mi viene facile. E quindi, detta così sembra una cosa spocchiosa, ma in realtà non. Dall'altro lato della barricata invece abbiamo Alessandro che sta al computer essenzialmente. Che tipo di strumentazione? Sì, sono pigrissimo, quindi. No, vabbè, sono in realtà. No, i pezzi sono, tranne le batterie che sono campionate. Sono programmate, il resto è tutto suonato. Mm-hmm. Sì, dai synth ai bassi o veri o comunque synth. Tutto a casa, ovviamente. Sì. È confortevole casa, dai. C'è una bella luce quando tiri la tenda, no? Quell'atmosfera certo. particolare, ti fai un po' da direttore della fotografia. Bello. Sì, sì. Quindi già avevi comunque una buona base di cose divertenti che ti eri divertito a produrre, insomma. Allora, in realtà sì, c'ho uno scatafascio di brani pronti e finiti che sono circa 300 e rotti che hanno destinazioni e come dire e output, forme di output differenti, però da quando abbiamo iniziato questa cosa hanno scritto altri 50, nel senso che forse un pezzo dei pezzi che stanno sul possibile futuribile disco della morte risale a forse 6-7 mesi fa, o 6-7 mesi prima della costituzione del gruppo. Cioè, sentire attingere a questi sì. 50 nuovi, queste 50 composti basi. In questo periodo per la morte, cioè nel senso che ho cercato anch'io di entrare in una prospettiva diversa, non comporre solo esclusivamente per me stesso come faccio sempre, ma con l'idea che qualcun altro possa intervenire sia con le parole sia anche mettendo in discussione le strutture o degli arrangiamenti che faccio, che a volte sono un po' troppo cervellotici forse. E quindi c'è Stefano che mi dà sti cazzotti zen non troppo metaforici. Devi curare, diciamo, lui cura l'aspetto della metrica, nel senso della della prosa, o della poesia a seconda del esatto, tipo di parlato che è, o di quell'incrocio probabilmente tra prosa e poesia che poi sentiremo. E tu invece curi la metrica della music, della parte. Ma in realtà è collaborativo il discorso, cioè nel senso, secondo me la vicinanza ha fatto bene a tutte e due. Cioè io magari ho imparato delle cose che non conoscevo, perché comunque sia ammetto che non conoscevo. Però il secondo me il come posso dire, sono spore che viaggiano, no? Sì, e quindi sì, c'è sì, una contaminazione molto molto positiva. Cioè nessuno impone niente all'altro, però la contaminazione dice... No, mi hai fatto tagliare in giro di una canzone, non ci provare. Cioè non di nessuno impone, di tranne una volta, sì, preciso, che quello ancora a me fa male, tanto. Vabbè, io ho tagliato un par di giri, lui l'ha presa con filosofia e si abbracciamo, è quello il discorso. Sono troppi 9 minuti di canzone, sono troppi, secondo quali standard. Certo, vabbè, per un palchettaro, sommato, sono troppi. Per un palcoscenicaro. No, nel senso che con un testo della morte avrei fatto almeno un mezzo disco di palcoscenico, certo, per dire, però vabbè, quello è una cosa che mi gestisco io e ma gestisco volentieri, è quello. Allora, io dunque, abbiamo mandato tante cose, in realtà appunto lo dicevo prima, quindi già chi specie ascolta questa fascia oraria conosce, qualcosa dovrebbe girare addirittura in automatico, però onestamente non heavy rotation. Sì, yeah, non così. Che poi parleremo pure di questo. Però io ascolterei una cosa, anche perché hai portato 6 tracce che sono state remixate, quindi sì, in versione mai ascoltata. Fra l'altro, sì, non tutte in realtà. Fra l'altro, per se volete conoscerci meglio, la prima traccia che potremo mandare è Wikipedia, che sarà il nostro primo singolo / video, vero? Fra un po'. Ah, va bene. Quindi diciamo, le cose si incominciano pure a creare questo polverone creativo, insomma, in cui si scambiano le spore. Ci siamo imposti di smettere di comporre, in realtà, perché sennò non cioè, abbiamo già di altri due dischi pronti, però tocca lavorare su uno. Va bene, dai, il allora tempo impone questo. Lasciamo un attimo le chiacchiere e sentiamo una traccia, perché sono, radiofonicamente parlando, sono 20 minuti che chiacchieriamo, prima con Lorenzo, poi con voi, quindi mandiamo una traccia con tranquillità, perché sto da solo al mixer. Ma figurate, bisognerà mettere in piedi tutta la faccenda. Siamo tutti da soli di fronte a un mixer. Fra poco, sempre. Quindi. Non è questa... Eccola qua, dai. Wikipedia, la morte. La morte è stato un gruppo musicale romano di musica elettronica e spoken word, fondato dal polistrumentista Alessandro Fusto e dal paroliere Stefano Tacquini, detto Tacquotti. Il duo è ritenuto uno degli esempi più significativi di ogni tempo nell'ambito della musica elettronica italiana. Il nome deriva dall'omonima silloce poetica del grande scrittore, attore e altro Alessandro Bergonzoni, morto di recente in una missione umanitaria in Afghanistan. I due due sono amici fin dall'adolescenza, militano in vari gruppi molto diversi tra loro, alcuni di discreto successo come Underdog e Palcoscenico al Neon, altri di cui neanche loro ricordano nome né sorti. A fine 2021, con il mondo ancora scosso dall'emergenza Covid, nasce il loro sodalizio e in poco più di due mesi mettono su il loro primo lavoro, che tutti qui a San Basilio chiamano scherzosamente Chernobyl. Successo è dovuto alla partecipazione al concertone del primo maggio a San Giovanni, dove, dopo aver infiammato la folla, il cantante bestemmia sul palco e litiga in diretta con Vincenzo Mollica, sostenendo che la legge consente di insultare la Madonna. Tacquotti commenterà solo in seguito l'accaduto, dicendo che non l'aveva fatta apposta. Inizialmente i nostri eroi non avevano intenzione di pubblicare un album, ma dopo una serie di accordi con la Tempesta Dischi decisero di firmare il contratto a condizione di mantenere il totale controllo della propria immagine e di quello che ne conseguiva. Era il settembre del 2022. Chernobyl esplose proprio come la centrale e il duo fu catapultato in un tour mondiale che durò due anni, toccando ogni parte del mondo. Invitati come special guest ad X Factor 2025, i due rifiutano sdegnosamente di censurare alcune parole della lunga suite complottista Il Doppio Piero, scatenando così le ire di Manuel Agnelli. Ospiti della trasmissione Rai Che Tempo Che Fa, eseguono uno dei brani del primo disco, Tagli, registrato insieme alla voce del Muro del Canto, Daniele Goccia Pfeifelmann. Il cantante romano durante il soundcheck fa notare come la sua voce non sia sufficientemente presente nel mix. Alessandro e Stefano reagiscono dando dell'incompetente al fonico, che per protesta abbandona la console. Accortisi della disperazione del conduttore Fabio Fazio, i due decidono di occuparsi personalmente dell'audio della puntata, abbassando notevolmente i microfoni della guest star della serata, Luciano Ligabue. I successi si susseguono disco dopo disco, come anche i numerosi aneddoti legati al loro tour mondiale, in particolare agli strani casi di suicidio di massa avvenuti in tutta la cintura meridionale degli Stati Uniti ed in Giappone. Le istituzioni di diversi paesi hanno avviato indagini ed inchieste circa la possibile connessione della band con l'esplosione dei suicidi, ma nulla di concreto è emerso a loro carico. Dalla Carolina del Sud è partita una violenta campagna contro i due, guidata da un comitato autodefinitosi Mamme Musulmane e Cristiane Insieme Contro la Morte. L'attività del comitato ha scatenato una bagarre mediatica che ha spinto gli organizzatori ad annullare il secondo tour mondiale della band, nonostante il caos scatenato dalle Tarquettes, gruppi scalmanate e facinorose capitanate da Uma Thurman. L'attrice statunitense ha dichiarato sul Washington Post, al grido di Pussy Riot, musica sessualmente eccitante, inoltre il cantante ha un certo fascino. Questa è solo una parte della storia della morte, il resto lo trovate su www.seguilamorte.it. Dal momento che avete già affrontato tutti i temi, sì, possiamo no, pure ma... dichiarare chiuso e andarcene così, insomma. No, penso. No, ma guarda, no, che possiamo aggiungere. Vincenzo Mollica è un macello. Sì, sì. Tu pensi che è facile andare a primo maggio con Vincenzo Mollica? Vai! No, no. Vai, cioè io con sono quel maglioncino grigio, un feltrito. Io solo, io sono bestemmiato sul palco, non è che. Non è che chissà che ho fatto. Fermati, è un macello! Ma è come la reazione di Ligabue quando gli hanno abbassato le voci. No, sì, vabbè, su Liga, però Ligabue non è Vincenzo Molica. Cioè, però, cazzo, lui lo sa che non è Vincenzo Molica, cioè lui è uno che viene da... Ma lui non sa manco di essere Ligabue, però, se no non suonerebbe no, più, lo non sa, canterebbe lo sa, più. Lo sa. No, secondo me non lo sa, da come ha reagito non lo sa, credo. Come ha reagito lui? Ligabue? Certo. Certo. Ma Ligabue non sa di essere Ligabue, secondo me. No, lo sa, lo sa. Non pubblicherebbe gli scherzi. E cazzo, fa 100.000 no? coglioni al forto come cazzo si chiama? A Imola là, come cazzo si chiama? Non lo so. A Rimini? No, a Imola. A Milano Marittima. Non vi seguo per il momento, non vi seguo, anche perché state parlando di fatti, diciamo, che sono successi ormai da tanti anni. Saranno successi, saranno in realtà. Saranno successi. Esatto, sì. Come si dice, la discronia. Beh, è un momento discronico il nostro futuro, esatto, cioè, perché? No, no, no. Dimostraci che ha sbagliato, dimostraci che non comunque succederà. È un futuro che non può essere radioso, perché insomma non può, ma essere, può essere, essere radio, può essere solo problematico. Secondo me invece può essere radio onda rossoso, radio onda rossoso, esatto. E quindi ma poi quando lui ha saputo questo fatto di Uma Thurman è impazzito. No, io su Uma Thurman non, cioè, guarda raga, non transigo, esatto. Su Uma Thurman non transigo, ve lo dico. Quindi ma basta campagne denigratorie. Oltre a Wikipedia ci sta quell'altro sito che invece la prende a coglionella, come si chiama? Segui la morte.it. No, no. C'è il sito vero. Beh, quello dovete sicuramente là c'è stato firmare. Ah, dove fra l'altro, scusa, c'è la versione integrale dell'accenno che abbiamo fatto sulla canzone alla suite complottista, il doppio Piero. Piero che parla di... Ti devo confessare una cosa, tu sì, sai la storia del fatto che nel 1969 una radio del proprio della Carolina, mi sembra, della Virginia, non mi ricordo adesso, un DJ ricevette una telefonata dove veniva confessato che in realtà nel 1966 Paul McCartney morì. Sì, c'è tutta questa roba. E noi siamo venuti in possesso di una cassetta, proprio di un'audiocassetta, di una musicassetta, manco al cromo fra l'altro, quindi per decifrarla ci abbiamo messo un sacco di tempo. Certo. Quelle le normal. Esatto, le BASF normal. Sì, esatto. E che è successo? Che praticamente la stessa cosa pare sia avvenuta con Piero Pelù. Ah, ok. Che dopo il però rientro, diciamo, se ne poteva quasi accorgere di questo fatto. Beh sì, se è bella seconda come la conoscendo, gioconda, ma porca troia, ma dai, ma non si può scrivere, certo, una cosa del genere. Ma è... suonano anche gli allarmi. Sì, anche, sì, anche le macchine adesso stanno ribellando, esatto. C'ho la abbiamo detto Piero Pelù. Sì, sì. E quindi c'è tutta la storia del... della trascrizione che abbiamo fatto di questa musicassetta e la trovate su Segui la morte. Pensa quando faremo il doppio lindo. Il triplo lindo. Beh, addirittura. Lì addirittura però mi sembra che come si dice, sfonda una porta aperta. Ma già l'hanno fatta. Non voglio sfondare niente. L'hanno già fatta una canzone su Lindo Ferretti. Per fare io sono Giorgia. Mi sembra, non era di Beh, pure i Grunge, no? Fecero a Giovanni Lindo. Beh, che comunque salutiamo comunque. Certo. Non si può non farlo. Ma no, loro la fecero su Giovanni Trapattoni, no? Su Giovanni Lindo. Sì, però c'era pure era per lui. Cameo a Giovanni Lindo. Comunque salutiamo Marco De Gronge sempre, che porto sempre nel cuore. Ok. Dunque, nel frattempo è finita tutta la base, abbiamo, come dicevamo prima, finito anche tutti gli argomenti perché siamo rimasti basiti. Ma non abbiamo finito le birre. Ma anche la nostra dignità sta abbastanza arrivando. Sì. Si sta abbassando, però al solito, insomma, poi è figo e... Ma non avendo, allora no. Ragazzi, non avendola mai avuta, per me questo è un territorio proprio fertile. Certo. Qui e non sai che sensazione. No, l'idea, guarda, invece era proprio un'altra, che appunto avete deciso, mi dicevate poc'anzi, che avete deciso un po' deguagliati di arrivare un po' al dunque, di limitare la creatività che comunque continuavate a sondare per diciamo cominciare a circoscrivere il campo, no? Però d'altronde è nata pure appunto quest'altra collaborazione che te non conoscevi, che è quella con la radio, cioè questo fatto comunque di questa roba qua molto grezza, molto abbozzata, molto preparata al volo, molto istintiva se vuoi, anche se pensata, invece viene trasmessa così piratamente quasi dentro Radio Onda Rossa, nella forma È possibile pure, perché appunto poi alla fine abbiamo la forma, lo schema mentale del disco, che ci abbiamo, me ci metto per primo, io amo i dischi, amo la forma disco e amo pure il vinile, ne parlavamo prima, assolutamente, cioè, o l'audiocassetta addirittura, anche se abbiamo veramente difficoltà tecniche, però ogni tanto non manco di ascoltare alcune audiocassette del passato. Si può oggi dire, anche in base a così alla vostra, il vostro gioco che avete fatto, che tutto sommato questa roba sta finendo, ma sta finendo pure YouTube, sta finendo anche la musica, cioè qual è il futuro della musica? Vi faccio questa domanda, così, dato che appunto già col futuro avete affinato gli attrezzi, abbiamo fatto già un bel viaggetto, insomma, essendo la morte mi sembra anche duopo. No, io ho notato una cosa che secondo me in realtà questo futuro è assolutamente il passato della musica. Abbiamo parlato di disco e lo usiamo come sinonimo di album, no? Mm-hmm. Perché noi usiamo il termine album per descrivere un 33 giri, per esempio? Certo. O comunque, perché prima, quando c'erano i 78, no? C'erano raccolte di canzoni. Mm-hmm. Cioè il formato non consentiva un ascolto prolungato impresso sul vinile. Quindi l'album nasce per raccogliere tutta una serie di cose. Adesso questa cosa si sta sgretolando e quindi questo il futuro, secondo me, c'ha un fortissimo sapore di passato, perché si torna a quello che era prima del un po' come per i Raffaelliti, no? Non dici ok, Raffaello non esiste, giustamente, secondo me, e quindi si sta un po' tornando al discorso, no? Al concetto, a come si fruiva la musica 50-60 anni fa, quando ancora non erano disponibili supporti fonografici che permettessero un ascolto prolungato. Quindi c'era il 78, si metteva 3-4-5 minuti. Mm-hmm. E vai. Quindi secondo me o quasi al jukebox. Assolutamente. Sì. E anche il 40, anche sì, riprende un po' il concetto del 45 giri, anche, no? Quindi un ascolto. Che poi non è detto che sia, uso un termine forse errato, giusto o sbagliato, però se è l'unico tipo di ascolto, secondo me si perde qualcosa, perché la bellezza di un album è data dal fatto che venga concepito come album, no? In un certo tipo di musica, poi ci sono tantissimi ambiti in cui c'erano 2-45 giri di successo e 8 riempitivi, certo. Però non penso sia generalmente la musica con cui siamo cresciuti, penso di poter parlare un po' per però tutti. Però insomma, comunque non c'è nulla di definito in realtà, no? È un processo tutto in divenire, in cui, non lo so, io immagino pure l'ascolto su YouTube, una cosa che faccio rarissimamente, no? Su YouTube o su Spotify, eccetera, per cui te gli dici, mandami la playlist, quello c'è una macchina, un algoritmo, un'intelligenza artificiale che in base agli elementi che gli hai dato te, no? Degli ascolti precedenti, eccetera, eccetera, lui disputa fuori una serie di robe. Come ci si confronta, appunto, senz'altro col politicamente scorretto, col cercare comunque di annichilire, no? Chi ascolta, di spiazzarlo, no? Un po' questo forse il gioco che fate. La sorpresa, lo scandalo, lo stupore, cioè, tutte parole che a me, cioè, per me sono fondamentali nella composizione. O comunque rompere comunque in qualsiasi occasione gli schemi predisposti, insomma. Sì. Potrebbe essere questo? No, ma il discorso è che adesso un gruppo deve, cioè, ma insomma, ritorniamo un attimo nel presente, ma però solo un attimo. Cioè, un gruppo deve fare un disco, cioè, quindi deve saper suonare le sue canzoni, deve saper registrarle. E poi si deve preoccupare di fare un mix diverso per YouTube, un mix diverso per Spotify, un mix diverso per le altre piattaforme del cazzo che esistono. Cioè, tutto sommato, io lo dico da 20 anni, quando, cioè, venivo qua le prime volte e dicevo che non è che devi solo saper fare le canzoni per essere un gruppo. Cioè, prima 20 anni fa dicevo devi essere fonico, devi essere grafico, devi essere PR, no? Cioè, devi avere rapporti con tutto il mondo e poi anche fare le canzoni. Adesso devi essere in grado. Ovviamente parliamo di autoproduzioni, ma pure noi siamo un'autoproduzione, certo. Però abbiamo altre problematiche. Le problematiche di oggi sono che tu non è che devi fare solo la canzone, perché sarebbe facilissimo se tu ci fai una canzone. Proprio perché dicevo quello prima, è inflazionato, però, cioè ti perdi in un mondo. Se sei solo musicista, sei un coglione. Perché? Perché devi fare il mix per. Cioè, la tua canzone deve suonare bene su tutte le piattaforme, che sono 10. che tu dici è una cazzata, vabbè, è una cazzata, no, non è una cazzata, perché è una cosa a cui ti devi confrontare, lo devi fare, lo devi fare, perché se tu fai solo un mix, poi su YouTube si sente de merda, su The Qua si sente de merda, su The Là si sente de merda, e tu ti sei fatto un bucio di culo così per fare un mix solo, che hai fatto? Niente. Quindi anche i fonici, adesso i fonici stanno avendo un'importanza da paura, i fonici nel senso di chi... Chi so quale mastering fondamentalmente. Ok. Okay. Che sono 10 mastering diversi per ogni canzone, cioè quindi cioè, è un discorso infinito. Cioè non è neanche da sottovalutare più tanto, perché... Comunque sia nel 2022, a questa equazione c'è una, siamo tornati Alessandro, non lo so, chiediamo a Fefo, perché io non Fefo, adesso è il 19 marzo 2022. Ok, 19 maggio. Okay. Oppure 19 marzo, noi come volete, che siamo andati avanti di 3-4 anni, fresco, esatto. Sì. Anche siamo andati indietro, ma indietro non abbiamo trovato il nostro spazio, forse neanche davanti, però davanti forse qualcosa c'è. Siamo ritornati oggi e ci siamo trovati queste serie di difficoltà che sono pratiche, cioè che sono... ma esiste, dico, a questa equazione esiste un'unica soluzione o una equazione irrisolvibile con non è risolvibile, milioni di variabili? Niente è risolvibile. Le variabili però viaggiano in base alla dedizione su quella cosa, cioè nel senso nel 2022 non puoi permetterti di fare solo un mix del tuo pezzo. Voi addirittura avete abbiamo ascoltato una roba appunto che immagina il futuro, proprio pure per la difficoltà di stare sul pezzo del presente, che diventa veramente problematico. Ci siamo confrontati con artisti della Madonna, però della Madonna relativa a questo momento storico. Tu pensa che abbiamo fatto una serata da Fabio Fazio con Ligabue, che non si è regolato, che fra l'altro era un nostro fan all'epoca, l'abbiamo dovuto schifare perché gli abbiamo dovuto far capire che... Cioè, la serata con Ligabue è stata pesante, perché comunque sia era veramente prepotente. È stato prepotente con noi, però sai, si è presentato... Sessista con le ragazze che lavoravano in televisione. Poi si è presentato schifo con quelle giacchette di velluto. Cioè, vai a fare cowboy nel 2022. Però a settembre. Con gli stivaletti. Sì, settembre. Faceva ancora caldo, però ti presenti con gli stivaletti con sperone. Certo. Cioè, capisci? Cioè, una persona con che io truccava. Tutti vestiti di nero. Una persona di una certa età, poi, insomma. Sì, no? Vabbè, te pensare. No, ma conta l'età che uno si sente dentro. Quindi Ligabue secondo me se ne sente 95 abbondanti. Cioè, nel senso che usa un luogo comune, non una banalità. Il problema è stato il rapporto con Piero Pelù quando l'abbiamo scoperto. Sì. Quando abbiamo scoperto che in realtà non era Piero Pelù. Cioè. Ma almeno ci assomigliava un pochetto al vecchio Piero Pelù che conoscevamo. No, sì, in realtà sì. Fisicamente. Sì. Ma c'entra pure la manipolazione genetica in tutto questo? No, semplice. Un bucio di culo, cioè, no. Semplice. Guarda che Ghigo, il problema è Ghigo Renzulli. C'ha avuto un bucio di culo, allora, da paura. Scusa. Ci hai fatto caso che a un certo punto Maroccolo, Magnelli e De Palma se ne sono andati? Perché? Beh, veramente prima De Palma se n'è andato, no, proprio al... No, però già ha suonato in epica di Catherine Capatos. Ma poi se n'è andato. Sì, sì, okay. Però se n'è andato prima. Ok, se sì, prima sì. È andato e poi se n'è riandato definitivamente. Okay. Esatto. Quindi Ghigo però era proprio irremovibile. Lui ha detto, oh, voglio fare sta cosa perché Maremma è pestata voglia, il Pelù un po' morì così. Ma poi ci sta a fare ridurre con quello finto, Con Piero Pelù ci sta a Se tu ascolti le canzoni, no? Vabbè, si sono inventati niente, l'hanno fatto i Beatles con cosa, con Paul McCartney, quindi cioè giustamente hanno italianizzato la cosa, hanno preso uno che gli somigliava e quindi sono passati da Eroi nel vento a sei tonda, sei bella, sei tonda, sei come la Gioconda. Dai. Non è lui, dai. Non sarà eroe, non sarà stato mai. Se bella, se tonda, se come la Gioconda. L'anello non te lo do. Ma dai. Proibito! Cioè, è proprio una cosa che. Non è lui, dai. Non è lui. Non può essere. Non è lui, dai. Ma adesso smaschereremo anche. Lindo Ferretti. Ce ne sono tanti. È un mondo dei cloni storti, sì. Per cui c'è bisogno della meteora che no, nasce. C'è bisogno della morte, esatto. C'è bisogno c'è bisogno della morte. Lo devo dire, perché la morte in realtà viene, ritornando al 22 al 19 maggio 2022, la morte deriva da una contrazione, come appunto annunciato direttamente sulla pagina wiki, di l'amore e la morte, no? Questo certo era... esatto. Il discorso del nome è: ci siamo innamorati di questa crasi che ha fatto il purtroppo ormai morto per una missione in Afghanistan umanitaria in Afghanistan, Alessandro Bergonzoni, pace all'anima sua. E... perché per lui la poesia doveva essere azione e anche azione politica, quindi cioè lui ancora non lo sa che succederà questo, quindi sì, magari sì, lui ancora non è morto oggi, però certo. Morirà, esatto, e quindi ci dispiace per lui. Però il discorso è che la crasi tra questi due grossi elementi, no? Dell'amore e la morte, sì. In cui in realtà ci sentiamo sempre vivi, perché perché noi quando amiamo è più forte di noi, certo. Ci sentiamo vivi, certo. E quando moriamo è il momento che guardiamo indietro, che cazzo eravamo vivi, e adesso no. E quindi ma perché voi cioè in noi questa siamo morti. Esatto, è cioè, certo. Conoscete già in questa, è certo, noi veniamo dal futuro, adesso noi siamo qua per un caso, no? Sì, sì, per una stranissima coincidenza quantistica. Esatto, bravissimo. Ma in realtà noi siamo già morti, quindi è bellissimo. Quindi fai. Cioè, di pallidi. Come si dice? Però approfitta di questa. Però siete morti nel 2050 e rotti, no? Ma però so, morire è sapere di essere. Dipende dall'evoluzione della vita. Ho deciso di cazzate, mi sa che. Non lo posso dire, perché. Esatto. In alcune trasmissioni siamo morti anche prima. Capisci? Anche quindi... anche già. Certo, cioè, sì. in alcune trasmissioni siamo andati già morti. Siamo andati zombie, perché loro accoglievano gli zombie. Alcune trasmissioni sono stati proprio i nostri funerali in diretta, sì, cioè, sì, bellissimo. Sì. Bene, va bene. Era strano, allora... partecipare poi al proprio funerale, no? 23:40, abbiamo ancora 6 tracce da ascoltare. Ma io le sentirei. Io guarda, ti direi un altro suggerimento, andare posso, avanti, no? Fino al futuro, senza... Esatto, in realtà il tempo non è per noi è irrilevante. Sì. Io continuerei sul percorso così abbastanza sul tragico. Chernobyl potrebbe essere un titolo che abbiamo già ascoltato. Chernobyl. Beh, poi parliamo pure di Chernobyl. Poi ce l'ha ascoltato. Io stavo proprio lì in quel momento. Sì, a parte Chernobyl, sì. Ma perché Chernobyl? Perché te c'eri? Cioè, dico, non Prima Island ma al Fukushima. Dico, ma perché non Prima Island o Fukushima? Perché Fukushima stava in ferie. Beh. E quindi sta dall'altra parte del mondo. Ma sai che forse non ero nato? O forse ero già morto. Però a Chernobyl c'ero proprio, ho visto tutto. Vabbè. E quindi so tutto. Cioè, poi ha fatto una polemica quando è uscita la fiction. Sì, grossa. Sì. Esatto. Si è messo lì a scrivere un sacco di tweet. Io c'ero. Oh, la fiction non te cazzate. Sì, sì, sì, Netflix, lo sai, compra, fa. Vabbè, ma certo. Vengono fatte per pubblico. Tutte cazzate, regà. Io la so la verità su Chernobyl. Dopo la dico. Va bene. Allora, e se vede questo terzo occhio che ha vicino all'orecchio, guarda. Sì, quello si è guadagnato sul campo. Aspetta, rigira un attimo che lo vedono pure meglio da casa. Sì. Ok, perfetto. Damma uno, sì. Zumolo. Allora, dai, Chernobyl, la morte, Radio Nerossa 25 o'clock, così per dare delle coordinate alle volte di... Esatto. Così, materialità delle cose. Sì, sì, sapendo che sono futili. L'alba, tra via Domenico Zanelli e via Domenico Carbone Grio, si apre uno spicchio di asfalto adiacente il parco giochi che sembra una piazza. 15 macchine perfettamente sistemate alla stessa distanza una dall'altra, lo fanno sembrare un parcheggio a cielo aperto, uno spazio adibito proprio a quell'uso. realtà al centro dello slab una grata 5x5 nasconde quello che c'è sotto, dei locali comprati anni prima dal cinema imperiale, che ora è un supermercato Totis, chiuso anch'esso. Sia il cinema che il supermercato però non hanno mai guadagnato uno spazio consono nel cuore dei cittadini del quartiere e sono esistiti per inerzia fino alla loro prematura chiusura. La fila dei carrelli arrugginiti, le insegne prese a sassate dai passanti, le serrande abbassate con disegni e scritte improbabili, fanno di questo scorcio un ambiente evanescente, disastrato, che tutti qui a San Basilio chiamano scherzosamente Chernobyl. Il punto però è proprio la grada. Quel rettangolo di ferro in realtà è una porta, non un portale fantascientifico tra due o più dimensioni, ma uno scambio reale come quello tra binari, un passaggio vero e proprio. Nei locali sottostante il piccolo parcheggio, infatti, 12 famiglie tra le meno abbienti, occupandoli nel corso degli anni, hanno trovato casa. Da lì entra la luce, da lì entra la polvere, la vita, le buste della spesa che le altre famiglie del quartiere gentilmente donano e poggiano in quel punto preciso. La fila dei carrelli arrugginiti, le insegne prese a sassate dai passanti, le serrande abbassate con disegni e scritte improbabili, fanno di questo scorcio un ambiente evanescente, disastrato. E tutti qui a San Basilio chiamano scherzosamente Chernobyl. Eccoci qua, 23:46 minuti primi, Chernobyl. Allora, raccontaci di Chernobyl. Vai. Chiedi, mi è ripartito, capito? Chiedimi, rispondi. Chernobyl è appunto l'episodio, diciamo, di sciagurato per l'umanità che... Lo pensi tu? No, vabbè. È tutta una cosa... quella è finzione. Quella è complotto. Quella è stato un complotto, okay. Quella è finzione. Però in Chernobyl della morte... Sembrerebbe che parliate di San Basilio. Certo. Allora, andiamo a affrontare appunto l'argomento, sì, okay. E anche questo doppio significato di... Le occupazioni abitative oggi le vedono come una centrale nucleare che esplode, capisci? E quindi tutto sommato non mi sembrava di essere stato troppo esagerato nel chiamare Chernobyl il racconto su un'occupazione abitativa. E poi la storia mi ha dato ragione, cioè, perché io, ritornando dal futuro, come Robert Smith, no, come cazzo si chiamava quello che c'ha? Ritorno al futuro, no. Non è Robert Smith, vero? No, ha sbagliato, scusate. Vabbè. Come si chiama quello che ritorno al futuro che... Essendo un Martin McFly della situazione, capisci bene che, però, molto più umile. Perché ridi? Perché ridi, Alessandro? Alessandro, perché ridi? Cioè, tu sei venuto con me. Era una cosa seria. Ridi. perché... perché ridi? Perché ricordo il viaggio di ritorno. Ma ridi in italiano o ridi in inglese? Boss. Lasciamo perdere questo discorso. Allora, quando sono ritornato da Chernobyl, ho riscontrato che in realtà il discorso di Chernobyl vera era, sai, mediaticamente gestita come una lotta, una guerra fredda da USA URSS, sai, quelle cose. Sai, cioè, in realtà non è successo niente, è scoppiata una centraletta, la fine della storia. Però a San Basilio, in realtà, è la cosa l'hanno vissuta talmente più profondamente. Perché? Perché che cazzo metti un'occupazione sottoterra di famiglie che comunque c'hanno, invece sottoterra hanno trovato uno spazio in cui vivere. Consono, hai detto proprio consono nel testo. In cui vivere, sì. In cui gli abitanti del quartiere, di tutto il quartiere, vanno lì e fanno, tra virgolette, beneficenza a modo loro, e gli portano la spesa e cazzi vari. Cioè, un'occupazione, ma sarà che cazzo più importante di una centrale nucleare a Chernobyl? Il problema della casa non sarà più importante? Ma se sì, secondo la morte sì, perché comunque sia, noi ci abbiamo qua la capoccia, capisci? Quello. Ok. Quindi c'è quello sguardo. No. T'ho spiegata. Sì, diciamo di sì. In realtà, appunto, qual è la cosa che ha mosso questa scrittura, il sentimento che c'è dietro, cioè qual è il sentimento, magari è troppo, che l'emozione o l'input che ha portato, comunque sia occupare occupare per restare vivi è comunque molto più importante delle tragedie. Ok, cioè quindi dobbiamo comunque resistere. Perfetto. Dobbiamo comunque esistere e resistere, e quindi sì, succedono le tragedie, ma cioè ci stanno dei macrosistemi sommato i macrosistemi vengono, sono una cosa, vengono, poi ci stanno anche i microsistemi, esatto, vengono considerati grandi, sommato, dobbiamo esistere e resistere a sto punto. E quindi se potete, amici e amiche, compagni e compagne, andate a via Domenico Carbone Grio, perché c'è sta una grada che sotto ci stanno le occupazioni, non lo sa nessuno, però andate e portate la spesa. Questo è prodotti poco deperibili, fra l'altro, che sotto l'umidità se mangia tutto, sì. Penso sì. Pure le persone in qualche maniera, ma a volte si mangiano fra di loro, però è poca roba rispetto a tutta la gestione, certo, economica della ci faccenda. Sono 12 famiglie, ok, cioè viva quelle 12 famiglie. Bene, 20:51 minuti primi, abbiamo affrontato anche l'argomento Chernobyl. Vi potrei chiedere pure adesso, dato la vostra la vostra esperienza nel futuro, come sono andate a finire quelle questioni che riteniamo stringenti, ma che magari non lo sono, tipo, che ne so, le pandemie, le guerre. Però insomma, poi perché rovinarvi la sorpresa? Gustatevele, esatto. Godetevele. Ve lo dico io. Ho capito, però concordavo una sta cosa. Non può essere che io ogni volta faccio la figura di quello che non voglio il cazzo e risulto antipatico. E poi Uma Thurman viene solo appresso a te. E che cazzo, dai. Ma è anche una cosa. Stizzito se ne si alza. Vabbè. Vabbè, Alessandro se n'è andato. Però adesso per farmi perdonare, farò scrivere ai massimo volume una canzone che si chiama Alessandro. Ah, moglie piace. Ma adesso piace. Adesso quando però? Adesso noi sconosciuto. Nel passato. Adesso nel passato. Bellissimo. Quindi andando a casa troverò sul disco di Massimo Volume una canzone che non ho mai ascoltato. No, non l'hai mai ascoltata perché non l'hai mai voluto ascoltare. Non l'ho mai o non l'ho mai vista. Perché non l'hai mai ascoltata perché non l'hai mai voluto ascoltare. Non l'hai ascoltata distrattamente. Massimo Volume in modo così. Però loro Alessandro l'hanno scritta davvero. Sì. Però il testo gliel'ho scritto io. Alessandro tiene un diario. Ma non è che invece mi sparisce il disco di Massimo Volume? Non da retta ai film, non succede. Troppi film sono fatti. Cioè, non è che è molto più caotico, non c'è tutta questa linearità. È più caotico e più semplice al tempo stesso. Come? Stiamo a parlare della pandemia. No. Vabbè, è una buffonata del capitalismo. È una buffonata dello Stato italiano che ci ha costretto a metterci mascherine, cose cazzi varie. E questo quando l'hai saputo più o meno in anno, te lo ricordi? Beh, l'ho saputo in che anno? Mi sembra quando stavamo a fare il tour quasi subito in Indonesia, quindi non è fra un paio d'anni sì. Ho saputo che comunque nel 2024 all'incirca guardiamo il mese, cioè. No, l'ho saputo perché comunque la gestione di tutto il mondo della cosa è stata diversa dalla gestione italiana della cosa, che è stata comunque mafiosa. Che poi quando eri presidente del Consiglio te, nel 2022 ancora sì. Se vuol dire. Poi dopo la mafia prende il potere. Ah, no, quindi mi sembra che per questa cosa che ho detto in radio questa sera mi uccideranno. Però vabbè, comunque sia, non è un problema. Io morirò, però risorgerò, perché è importante. E soprattutto contento. Ma sì, ma che cazzo me ne frega di morire? Certo. Risorgo. È risorto Gesù Cristo. Figura di detenzione. Se non risorgo io. Certo. Comunque sì, è stata tutta una gestione mafiosa, però se vuol dire. Vabbè, semmai domani torniamo. Smentite? Oppure smentisci? Vabbè, mi dispiace per quelli che ci hanno rimesso la pelle, però la colpa è tutta della gestione mafiosa dello Stato italiano. Però questa cosa la dirò nel 2030. Giochi fatti. Cioè, lo sanno tutti. Busillani. Aspetta, tutti. Io te lo sto dicendo, però perché sono tornato dal futuro. Certo. Ok. Quindi siamo arrivati alla terza proposta. Per ora puoi finalmente scegliere. Questa che stiamo mettendo adesso? Di cosa parliamo adesso? Abbiamo un bella ciao, tutti pazzi. Un bella ciao, un supernova, un taglio. Tutti pazzi, dai, così facciamo stavolta un passo per davvero nel passato. Sì. Con l'omaggio a Negazione, ovviamente. Massi. Venire da queste. Come? Marco Mattia, che nel mio mondo è ancora vivo. Certo, certamente. Ci siamo, ancora sempre con le difficoltà nel manovrare qui la maratona. Ma il problema c'è stato. Ma voi sarete pazzi. Fra due anni cambiare mixer. Certo. Noi che siamo passato futuristi, non ce ne freghiamo un cazzo di niente. Vi sfumo. can ask if our target vehicle has just passed through. It should be with you in about a minute. Yo, broken dialect, no close scope, yo, you won't keep our minds repressed. We gotta form an alliance, please force a reliance. We gotta form an alliance. 000, quindi un momento importante perché è un passaggio proprio di data, da un momento all'altro. Non siete ancora svaniti, quindi vuol dire che cioè, i vari balzi temporali che avete attraversato comunque non... No, questa settimana non ce la facciamo in questo anno, abbiamo pensato questo, sì. Cioè rimanete stabili per circa un anno. In ferie nel 2022, sì. Cioè vorrei dire che comunque sia... Negazione! Però nel 2022 dopo il dodicesimo disco succede, è chiaro che la spinta poi non c'è più la ragazzi, si sono un po' allontanati dalla strada, cioè voi non lo sapete perché comunque sia siete ancora in negazione. Nel 2022 erano passati dall'underground al mainstream, ma non per merito, perché tutta l'idea ha detto oh porco Dio, in negazione. In negazione. E che hanno vinto? Hanno vinto in due anni, hanno vinto tutto. Sanremo, Eurovision, i mondiali di calcio. I mondiali di calcio, gli europei. No, i mondiali di calcio non saranno qualificati. Ma gli europei erano. Roland Garros? No, perché si trovano meglio sull'erba di Wimbledon. Ok. In negazione sono. Cioè, voi non lo sapete, voi ancora non lo sapete, ma nel 2022-23. Cioè in negazione. Sono stati una. Perché è uscito il libro commemorativo? Oggi. Oggi. Ma oggi nel senso in questi siamo giorni. Nel 2050 però. O 40. Ma guarda che anno siamo? In che anno siamo arrivati adesso? Sempre 2022, sempre. Adesso abbiamo cambiato data, siamo al 19. Siamo nel 19 secolo? No, nel 19 di maggio. Ok. Del 2022. Ogni tanto era meglio, quindi purtroppo sono rimasto. Ma questo così. È il tuo presente. Io sono rimasto così, relegato e in prigioniero. Cioè, vissuto del presente. Noi abbiamo vissuto un mondo in cui negazione erano Dio. E questa cosa era bellissima. Ok. E la gente faceva le processioni, c'erano i rioni delle città che portavano a spalla. Cioè, non è stato solo un processo di. Così, tipico del. No, hanno capito che quando loro di mitologizzazione dei. Sono stati demitizzati, per questo è ancora più forte, perché in quella realtà tutto il discorso delle sopravvivenze del cristianesimo, dei monoteismi, completamente svanito. Sì, è completamente proprio dimenticato, la gente non c'ha ricordo di quelli che. Anche perché è negazione. Esatto. È stato negato tutto questo. Certo. Non so se tu ricordi ancora, noi vagamente, che nel 2050 gireranno, non so, dei filmati. Ti ricordi quelle specie particolari che si riunivano a gruppi e si battevano i pugni sul petto così? Mm-hmm. Che erano però primati già formati, non erano scimpanzé o scimmioni. Come li chiamavano però? Che dice bacia banchi, una cosa del genere. Dice è colpa mia, è solo colpa mia, sono un coglione, è colpa mia. E quelli che nel 2022 che ricordo io se ne vedevano ancora tantissimi, tempo da 15 anni saranno veramente relegati a piccoli revival, minoranze comunque che neanche vanno protette alla fine. Sì, proprio la via dell'estinzione per poi. E invece negazione ovunque. Invece esatto. Negazione, diceva. Vegliami tutti quanti, chiama la polizia, in casa c'è una donna che non è più la tua. E dimmi se ti ha dato quanto ti ha dato lei. Dimmi. E mentre ballo sola piangi nell'ascensore. È vero che la vita non sono sempre scale. Le lacrime e la doccia fanno spesso l'amore da settimane senza pudore. È vero, a fasi alternate non si ama ciò che fuggi. Io per esempio odio quello che mi ha dato, mi ha detto oggi. Perché? Perché hai scelto un giorno di sole per potermi dire in faccia soltanto brutte parole? Perché tenevi stretto quel fiore se poi quello che mi hai dato era solo dolore? Ma quale giorno di sole? Lo so che sbadigliando simulavi stupore, certe cose vanno come devono andare, ma il tetto rimane, sì, è da riparare. È vero, a fasi alterne non si ama ciò che fuggi. Io per esempio odio quello che mi hai fatto oggi. Cioè, ragazzi, negazione, parlavano di cose serie. E voi che le avete vissute nel 1990, neanche, aiutami, ti prego, 3-4 noi che ma fin dagli anni 80, sì, certo. Noi che veniamo dal futuro e capiamo la grandezza di questi gruppi, ma adesso se vuoi te ne sviscero anche, te ne eviscero anche altri. Ti posso mettere una base? Ma certo, okay. Ma certo, allora aspettiamo un attimo, vai. Che stanno i sbirri? No, intanto arrivano gli sbirri. Gli sbirri! Yeah! Horaci! Maxwell MC, Fresh UK Connection, papi! On va changer la balance! Yeah! All the puer papi, ha. I open my eyes wide every day and the society's the same. Tired of the same old guys, same old ways, same old statements, same old sayings. Complaining about the state of the place, but they ain't campaigning or making change or fighting. They're just liking the page, fake enlightenment to brighten the day. Filled up inside in the slightest of change. Rights of a minor, slice of the pain, but they're still residing at blighted state that they tried to escape. Confined, no mind for debate, just close scope. Tote by the lies that you're told, so they try to cope by lighting a pipe or lighting a smoke or a nosedive for a liner that coke so they can get high and high from the cold. Quindi dopo ora sì che suonerà sabato e ci sarete, penso, no, alla SNIA più o meno fra fra venerdì e sabato. Venerdì sicuro. Ok, abbiamo. Però aspetta, che venerdì è? Perché dopo domani. Dopo... Che... Ah no, facile. Sì, vabbè, a me la sì, dà la metodica, perché... Del 2022. Innanzi. 2022, ok. Quindi venerdì prossimo del 2022. Potrei esserci, lo sai. Non morì, sono morto dopo, dopo. Poco dopo, però. Dopo. Va bene. Nel frattempo abbiamo selezionato idonea sottofondo, certo, musicale. E quindi attendiamo che inizi. Vuoi indossare la cuffia? Vai. Piove sulla strada, pioggia nuda, pioggia che uccide l'ultimo giorno di viaggio. Voglio addormentarmi e non sentirti dire che il tempo ha avuto la meglio su tutto. Nomi senza casa, senza meta, mezzi senza fine. Chiudere l'inverno per sporcarmi fino in fondo al cuore, lungo ogni sentiero degno di essere solcato, cedere alle onde del destino ora in piena, mentre il sole in cielo inciampa su se stesso. Hai scritto sul mio corpo che non è la fine, hai scritto sul mio corpo che non è la fine, hai scritto sul mio corpo che non è la fine.

Nell'incursione, diciamo, quindi abbiamo assolutamente non con grande piacere, assolutamente no. Ma con grande dispiacere per la commemorazione nel nostro futuro Auro Bruni non è mai morto perché il fascismo non esiste, quindi è difficile pensare che voi nel 19 maggio del 22 al cortocircuito fate una memoria antifascista in cui non dimenticate Auro Bruni, che nel nostro mondo in cui il fascismo non esiste è ancora mai morto. Cioè, il fascismo si ricorda come una cosa esistita e schifatissima, limitata a 20 anni. Il neofascismo quasi non è esistito, insomma. No, proprio non è contemplato, cioè veramente non. E soprattutto non ha fatto morti. Non ha fatto, sì. Però Urbano, comunque portate un fiore o una pianta per Auro e per la memoria antifascista il 19 maggio del 2022, in cui nella mia testa non esiste perché non abbiamo un anno di nascita o di morte, però sicuramente il fascismo nella nostra testa non esiste e quindi nessuno muore di fascismo. Nel frattempo abbiamo però ascoltato pure un'altra roba che appunto si chiama Bella Ciao, che guarda caso però parla di quel perché esce fuori, quindi perché come Bella Ciao per raccontare se tu prendi un pianista classico suona Beethoven che è successo, cioè che ha composto 200 rotti anni fa, e noi abbiamo fatto canzoni di un passato che nella nostra sospensione dal tempo è quasi mitologico. E quindi ci andava. Il fascismo non è stato dimenticato, è stato abbiurato completamente. E quindi ci piace una festa. Ho capito. Proprio sì. Quindi Bella Ciao, diciamo, non è tanto una canzone che ricorda un periodo brutto, anche, ma soprattutto ricorda un qualcosa che è scomparso. No, dalla ma storia. Nel vostro mondo questa canzone è stata proprio inflazionata bestia. C'è anche quelli di Mediaset, sì, c'è sì, anche sì. quelli di Fininvest. Sì, sì, sì. Anche beh, quelli... sì, Bella Ciao proprio la cantano, certo, veramente lui quel raffondatore. Sì, però sì, noi, sì, noi sì. che veniamo dal futuro per ritornare nel passato per rispetto. Ha acquisito una nuova purezza proprio. Sì, proprio sì, pura, sì. È candida. Tu pensa che nel nostro futuro non esiste Berlusconi. Che... Ma anche nel loro tra poco non esisterà Berlusconi, credo. Ma no, perché invece Berlusconi è immortale. Cioè, non glielo dico l'anno che muore, perché non glielo voglio dire, però è una rovina, la sorpresa. E vabbè, anche perché evento... lì c'è sta quel discorso però della genetica che è applicata potentemente, no, a questa lui, persona. Ma, sì. ma lui è un personaggio che comunque sia. Anche se noi pensavamo nel mio passato che anche Andreotti fosse immortale. Che a un certo punto. Lo sai che noi invece poi è morto, dal futuro. Ti diciamo che comunque sia. Che abbiamo scoperto la verità, e comunque Andreotti non essendo ricco come Berlusconi, mm-hmm. il suo inside non era come quello di Berlusconi. Mm-hmm. Cioè Berlusconi comunque ha comprato bambini da tutto il mondo per rinvigorirsi. Sì, rinvigorirsi, cioè certo. Questa è una cosa bruttissima. Che però signor Andreotti, tra l'altro, quando l'hanno tagliato a metà dopo morto, non hanno neanche riuscito neanche a non l'ha mai anelli. Fatto, infatti è morto. Fortunatamente, fortunatamente è morto, però sai, queste cose lui non le faceva. E Berlusconi, per imitarlo, un programma è rimasto così 5 minuti, no? In cui una immobile. Presentatrice, forse Eder Parisi, o forse. O Eder Pariolini anche. Sì, era, sì, no, secondo me era la Cuccarini. La Cuccaraccia. La Cuccaraccia. La Cuccaraccia lo guarda e gli fa: oh, presidente. Presidente, quello era un ictus. Sì, cioè, sì, era un ictus. Sì, sì. Però cioè, dopo lui, niente, hanno rimesso le batterie nuove. No, sì, sì, sì. Cioè, hanno cioè, dato una ictus, una birra che lo ricarica. Talmente tante sfaccettature no? Che non è morto. Però il poeta non mi trova le parole qua. Boh, vabbè. Beh, dopo sei Peroni, capisci sì. che anche un poeta beh, però consumato e navigato. Prima usavi molto la parolaccia che ti serviva a riempire, adesso invece stai anche diventando. È il futuro che perché è il futuro. Se vuoi ti leggo qualche cosa. A parolacce. No, senza parlare. Va bene, anche però, a però per le, sì, dobbiamo allora abbiamo ancora mezzanotte e 33, abbiamo sì. ancora un paio di tracce. Okay. A che ora attacchi domattina? Non alle lo diciamo. Alle 6. Però c'ho la 5, quindi. Però poi potresti pure giocare sul tempo e quindi far durare no, la notte. Non è un micro segmento. Mm. Ah, ok. Vai a gap dei mesi. Cioè il time domani jet lag. Domani mi devo svegliare proprio alle 5. Ah. Non è che sono le 5, qualcosa. No, sono proprio le 5. Quindi, però dai. È un cronometro proprio lineare che scorre ho il tempo. Ho scelto di ritornare in questo tempo apposta. E di tornare umile. Perfetto. Umide allora, io metto Idonei a base, poi mi dite pure che cosa abbiamo mandato un po' tutto, ma avete detto fai un po' come ti pare. Vabbè, ce ne abbiamo ancora un paio. Sì, ce ne abbiamo un paio. E, va bene, aspetta e ti metto Idonei a base. Vai. Mi specchio nei contorni di una luna fromboliera, di un mondo distratto e mazzafionda, di un cammino di sangue mongolfiera, che vola in alto dove non c'è luce, dove non c'è spazio per tutti e si riduce a collezionare sospensioni spazio-tempo, come suoni di rovesci fuori campo e accendiamo roghi. Per vederci meglio, per toglierci la brina di dosso e perder tempo e bere litri di sangue minerale temporali distillati a colazione per sbagliare piano continuamente e non averne di nuovi e fare ancora gli stessi errori, guardare al buio arbitrario bagliori nasciduri. perdere sangue dalle mie mani bianche. Sono aperte, vedi? Riesco a cattenere delle altre cose, oltre te, oltre te, oltre te, oltre te. Il tempo di scordarle sedute su sedie che ci inghiottono e poi chiuderle in modo così serrato che sembrano soffocare. Vuoti di ossa a perdere soltanto per un momento preciso. La via negativa del respiro. Tagli, tagli, su tagli, su tagli. Ricordi il punto esatto in cui mi hai ferito, lo ricordi? Colpi sopra colpi che rimangono un sentiero di ferite. Qui fa freddo all'improvviso, sono cieco in ogni. Colpi sopra colpi che rimangono un sentiero di ferite. Qui fa freddo all'improvviso, sono cieco in ogni. Avvolgerà il mio corpo ferito, lasciato a perdere sangue. E rumori, e ancora rumori, che riportano la vita. Una porta socchiusa, una porta socchiusa, una porta sbattuta. Tagli, su tagli. Ricordi il punto esatto in cui mi hai ferito, lo ricordi? Lo ricordi, lo ricordi. Colpi sopra colpi che rimangono un sentiero di ferite. Qui fa freddo all'improvviso, sono cieco e non ti. Colpi sopra colpi che rimangono un sentiero di ferite. Qui fa freddo all'improvviso, sono cieco e non ti. Minuti dopo la mezzanotte abbiamo perso Ciccio, perché penso pensavo che t'avamo perso, che eri andato subito a rovinare il bagno, a rimirare il nuovo bagno. Sì. Che sono mancato, che il bagno nuovo è bellissimo, ragazzi, è vero. Venite a fare i vostri bisogni. C'era una scritta bellissima in un cesso dell'università di tanti anni fa, di una aula occupata, che diceva: questo è l'unico cazzo di posto in questa cazzo di società strutturalmente destinata alla soddisfazione dei bisogni umani, insomma. e questa è una cosa grandissima. Però no, se posso dire una... Sei stato mai ispirato da scritte sui muri senz'altro? Sì, no, dei cessi, proprio. Sì, ma è stato un cesso comunque. Mi hanno attaccato addosso tantissime, tante di quelle cose che. E poi alla fine ho dovuto farci i conti, capisci? Quindi non capisco perché quando uno entra in un cesso poi alla fine si sente libero di esprimersi. Però io, però così è. Venendo dal futuro, ho detto cazzo, mi sento un cesso con tutti i post-it sopra. A volte ho fatto una somma di questi post-it e detto questo, ho detto senti, sa che famo, cioè lo famo un gruppo sui successi, e lui mi ha detto vabbè, tutto sommato non siamo meglio di un cesso, abbiamo fatto i CSI, infatti. Il cesso. Quindi consorzio suonatori e quindi tutto sommato impenitenti, si poteva fare, e quindi l'ho fatto, capisci? Quello. Però, e invece mentre te eri assente, noi ci siamo ascoltato Tagli. Tagli. Che cosa ci dici su Tagli, che è una cosa ormai passata? Cioè, nel 2022 l'avete fatta. Sai, sono passati almeno 400 anni, quindi non ricordo bene. Comunque, generazioni che ne parlano. In quel momento là. Ero solito tagliarmi, sai, sulle cose mie, cioè che un tatuaggio fatto male lo tagliavo, e una abbronzatura fatta male la tagliavo, però ero bambino, capisci? 400 anni fa ero bambino. E poi ho incontrato questo Pfeifferman Coccia Daniele che c'aveva il vocione. Sì, c'era un vocione basso, no? E quindi. Però tu quando lo incontri non lo sai, perché c'è la voce normale se ci parli. Sì, lo fa apposta. Lui sforza molto a parlare normale. Non lo immaginavo, cioè io ho detto vai a farmi una goccia Daniele. Perché? Cioè, infatti io, sai, vengo dal 2700, quindi. E lui mi fa, guarda, tu, Tarquini. Tu sei di Guidonia, e io faccio, beh sì, in realtà sono attualmente di, sono stanziato, sono di Guidonia anch'io, se poi torno nel passato e mi fermento a Guidonia, e quindi mi sono fermentato a Guidonia, e quindi penso anche un cane avevo nel 2022. In che anno siamo, cazzo? Devi sempre chiedere a lui. Io 2022. Quindi siamo nel 2022. Pensa, io essendo nel 2700, voi del 2022 neanche vi considero, però il discorso è che nel mio tempo la vita è eterna, però non passa mai per Dio, capisci? Mentre voi c'avevate il trip per Dio, noi del futuro il trip per Dio non ce l'abbiamo, e quindi Daniele Coccia c'ha quel vocione. Perché però, non c'ha il trip per Dio. Bravo, quello è la chiave. Cioè, i pochi illuminati in cui che abbiamo la fortuna noi della morte, che. Ma tu sei vivo nel 2700? Allora, non mi ricordo bene, perché c'è stata una controversia legale. Quindi non te lo so di. Perché l'epoca in cui uno decide quando. No, perché nel 2600 è successa una cosa. Che voi nel 2021. No, non la sappiamo. Ok. Ma non potrei neanche immaginare proprio. Tu l'hai vissuta, però. Dopo il 2022 non potrei immaginare. C'è stata una pandemia. Una crociata mia. Perché guarda che le crociate erano nel 2300. Perché tu c'hai scritto quel testo nel 2700, dai. Perché, sì, perché però, tornando avanti e indietro, ogni tanto confonde, prende le coordinate. Un futuro, cioè. Una cosa che sarebbe successa nel trapassato remoto del futuro, però, capisci? No, ma non c'era il segno. Non c'erano neanche le avvisaglie. C'erano le avvisaglie perché tu non l'hai comprese, perché tu sei un buono. Nel 2400 ero abbastanza stronzo, però. Invece che ero un buono a nulla. Vabbè, insomma, Daniele Goccia lo incontri a Guidonia nel 2022. Beh, pensaci, cresco insieme, ma è una casualità. E quindi abbiamo la stessa, cioè lui dice che siamo tutti due del 78, in realtà lui è del 78, io sono del 700 meno avanti Cristo. E quindi però ci siamo incontrati in un Benjamin Button del pensiero, ci siamo incontrati a vivere una vita insieme. È relativa, poi siamo cresciuti, poi lui è cambiato, quindi è cresciuto. Beh, lui sì. Quanto è alto adesso? Beh, alto quasi 6 metri. 6 metri? Beh, sì. Sì. Ma perché voi in 2 quanto no, siete alti? No, no. Tu no che? No, no, no, no, no. Non sei alto 6 no, metri? Noi a un certo punto ci fermiamo, capito? Cazzo, c'è anche una canzone che si chiama Vadussi, siamo alti 6 metri. Cazzo. 6 metri. Tipo proprio. Sì. Probito. Cioè, anche chi è che cantava io Vadussi? Il doppio. Pianello. Pianello, non Raimondo, No, Raimondo. Sigismondo, pace all'anima di Raimondo. Però comunque sia, faremo anche una canzone sul doppio Raimondo. Siegfried Pianello. Vabbè, però fatto sta che comunque sia. Ma lui a 6 metri continua a avere il vocione, però. Perché canta dalle ginocchia. Sì, la voce gli esce. Invece di dare di cantare di petto, esatto. Canta lo perché più cresce più scende la voce. Anche lo sono chiesto anch'io, però il discorso è che voi nel 2022 siete talmente indietro. Cioè, è naturale. Cioè, ste cose. Ma non ingenuità non è neanche. Non manco le manco vostra, le consideri. È ignavia, non ne avete neanche. Senti, invece Supernova si riferisce proprio a un evento accaduto, cioè una Supernova che esplosa e che si è mangiata tutto. Ma certo, noi, cioè, io guarda, non mi sono inventato niente. Anzi, pure il testo è pure niente di che, perché ho detto solo. È una cronaca. Mo dico le cose che succedono, poi se ci credono bene, sennò scazzi loro, capisci? Certo. Qui. La mettiamo? Sì, mettiamo no, Supernova. Ma parliamo ancora se vuoi. Sì, lasciare come chiusura proprio, no? Come ci andiamo con Supernova? No, perché è ancora presente. La mandiamo in loop per tutta la notte. È quasi luna. Calcolando da 12 minuti per svegliare. Ora mi devo svegliare. Certo. La metteresti, sei per tipo questa soluzione, no, non la per metterei, poi sai non o so vuoi leggere ancora qualcosa? Se mo dici così. A leggo prima o dopo? Generation of pain being censored through the media. The internet is rising as the baby boomers die off. Somebody hacked the phone lines, you scrambled all locations, y'all. Shoot me your message once you reach your destination. If you make it out alive, remember that. Preparo idonea base. Mental state is regulated, no featherweight. I'm heavy in the game and making changes. No hesitation when it comes to taming hatred. I devastated outcome. Odorano ratti i tuoi polsi, bucano i pensieri con una penna biro vaniglia e sanguinano cioccolato braille, mandorle di uova di pesce, fasce di istrioni, storioni neonati, bastioni di panni spiegati, pensanti vittorie di Labrador, il cammino profumato dei ciechi, magico spasso dei sordi che urlano, bisbigliano, sparlano di un sottovoce minore al silenzio che è un ghiaccio spray, neve finta dei capelli lunghi, nebbia di sportelli aperti, sabbietrini verdi ed un viale dove mischiano versi, dove è meglio astenersi, dove è meglio perdere, è magico perdersi. Ti chiami come mio padre che non è un fascio di spine, un ritrovo di piaghe, ma una pioggia costante, a volte eloquente, che odio, amo e poi niente. che svuoto, riempio a luci accese o spente, perché poco rimane di quel vuoto affluente che è crescere, che è crescere, viscere o mescere un calice adivico di sangue apparente, delirio appagante e veggente, un gap evidente in cui siamo soli ma senza luce, siamo pieni di diluvi ma senza voce, che ha un dettaglio atroce altrove, macchina impertinente, la poesia è il presente, la realtà indecente come un vodka lemon pieno di niente, senza aggiungere cose, assomiglia ad un miraggio, o sole che scaldi i pianeti, riempi di colore e coraggio, affronti sistemi solari, problemi morali e mischi Jack Daniels invecchiato a Campari, ma senza ritegno, senza contegno, il tuo modus operandi è un pestaggio, algoritmo malato contagio, precipizio bovino di maggio, e farneticare delle mie ferite che adesso il giorno puzzle muore dentro un freezer senza compassione, e tu sai recitarlo o ti limiti a fare lo scalpo al tuo prossimo addio, continui ad urlare i tuoi slogan su un peripendio, distendi falangi e rimastichi aborti che guardi al mattino come figli risorti, o comunque non porti rancore, non crei stupore, dolore e poetiche, infili in arterie spezzate, scivolano pensieri contorti, morte tra le scavole in disparte, la fine lucente dei vivi, la notte atomica dei morti. Telemaco sognante e Penelope ricamata, profonda dei deserti di coraggio. Scorta Cassiopea, la città infuocata dell'Asia Minore. Le processioni, la striscia di Gaza, i mani capovolti, le infiorate, i canti stonati, la domenica delle palme. E poi scorta te stessa, in un novizio Medio Oriente del pensiero. Io ti sarò vicino per non perdermi tra le stelle infuocate della notte papavero. Broken dialect, forming alliance, obviously, Mont Fleece, yeah. È l'una, mancano tre minuti e credo che ce l'abbiamo fatta. La sua sveglia. Ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo per fatta. Per ora, mo' domattina voglio vedere. Ti maledirò, però è stato bellissimo. Raccontarvi di questo futuro per voi inimmaginabile. No, di questo futuro nel passato. E calcolate che abbiamo ascoltato sette tracce e parlavamo di 50. Quindi, insomma, abbiate timore di quello che vi può aspettare, anche perché avete un tempo infinito. Ci rivedremo presto, sai, noi viaggiori del tempo. Aricicciate. Sì, ricicciamo sempre. Riciccio, infatti, è. Cazzo te ridi, è la verità. Quindi adesso noi torniamo a casa, nella nostra casa del futuro, in cui però io nella nostra periferia del futuro. Mannaggia Dio, mi devo svegliare, però mi sveglio volentieri, perché che cosa abbiamo fatto questa sera? Questa sera abbiamo fatto. No, ma lasciamo perplesso, non avrei saputo cosa rispondere. No, te lo dico io cosa abbiamo. Questa sera abbiamo detto la verità. Ok. La verità su tutto, in cui la musica. Anche perché poi la verità al momento d'oggi è qualcosa di veramente sfuggente. Sì, quindi bravo, si può dire di tutto e dire che è verità. Nel vostro modo del 2022. Quando del racconteranno 2022. Di chi è veramente Piero Pelù. La vostra verità, le vostre certezze del 2022 non esistono. Allora io che sono del futuro vengo e ti dico: guarda, le verità sono due, sarebbero tre, però diciamone solo due, che sono la poesia e la musica. La terza non ce la può dire perché è troppo scottante per noi altri. È tipo le rivelazioni dei fati, ma no, che no, era lo scudetto terza, alla Lazio, non si la capiva. Terza, spero che ce l'avete anche voi, però comunque sia nel 2700 è uguale. Sì, però sì. È una delle cose invariabili. È bello tornare indietro nel pensiero delle radio, del insomma, di questa cosa delle onde, perché archetipo voi, proprio, voi siete una onda rossa, ma noi viviamo anche in onde di diverso colore. Ultraviolette, sono spettri che appaiono a tutto lo spettro delle onde elettromagnetiche, perché ci confrontiamo con cose che abbiamo magari odiato quando eravamo bambini, e comunque ci abbiamo avuto questa fortuna di viaggiare nel tempo e quindi regà, continuate così, perché voi siete la Radio Onda Rossa, noi non siamo niente senza di voi. E quindi anche il ragazzo che è entrato prima, cioè il cortocircuito, le occupazioni, la festa, sì, Chernobyl a San Basilio, cioè sono tutte cose che è vere, che comunque sia la SMIA di settimana prossima, pensa, io pensa che te lo dico da sette, cioè, ho fatto anche delle cose mie in questo periodo che non ricordo. E quindi non le dico perché non le ricordo. Ah, ho capito. Giusto, no? Sì, mi sembra che il ragionamento. Anche la domenica prossima noi abbiamo fatto una cosa che sì, però esatto, non ricordo. Che non ricordo dove, però magari qualcuno che vive in questo tempo se la ricorderà. La può ricordare, la può cercare, la può trovare, ma non è importante perché comunque noi siamo del futuro. E quindi tutto questo ci tocca pochissimo. Va bene. Va bene, con queste parole di saggezza, devo dire, insomma, di... però una saggezza vissuta, cioè da chi ormai... Una saggezza tragicomica. Tragicomica e millenaria allo stesso tempo, di chi ha una consapevolezza, insomma, che noi altri terreni... così relegati nel nostro piccolo spiraglio siamo di siamo terreni anche noi del futuro, cioè certo, comunque certo. Terreni, cioè... però con sì. Va bene, dai. Vabbè, comunque noi siamo vabbè. la morte cioè, quindi la morte, 50 tracce in attivo, 50 continue, sfumature della morte proprio. 50 sfumature della morte, 500, scusa, 500 che verranno a comunque a interferire e a segnale che disturbano la radio. Verrete a disturbare il segnale di Radio Onda Rossa, dai. Quando vuoi. Ok, tanto mi passo. Comunque ci sarete WhatsApp, anche nel 2700, quindi. Sì, sì, sì, sì. Beh, vabbè, però allora facciamo un appello al 30 per 1000. Beh, certo. 30 euro per 1000. Cioè, 30 euro sono quasi 5-6 spritz, cioè se una serata non bevete 6 spritz, voi nel 2022. Cioè, noi ci hanno... Ci sono solo alcolici nel 2700, solo alcolici. Okay. E non fanno manco male. Di uno eh no, perché cambia metabolismo, cioè, cambia organismo. Sì, il fegato viene completamente sparisce. Non esistono, non è esistono come la più piccioni. Esatto. Siamo tutti secchi nel 2700. Sì, pensa. Noi abbiamo una protesi cinematografica adesso. Ah, ho capito. Per come ci ricordavate, esatto. No, bravo, bravi, bravo. Siamo ritornati indietro a quando eravamo ciccioni. Certo. Però in realtà nel 2700 siamo secchi e altri non, c'è più, sì, non c'è più perché, il fegato, no ma ci sono dei bottoni in cui dici quanto vuoi essere alto, quanto vuoi essere magro, quanto vuoi essere comunista, sì. Io ho spinto però non, tre bottoni, però non ci stanno altre opzioni, cioè puoi essere comunista e basta, quanto vuoi essere, cioè, non anche perché non c'è nulla, esiste solo il comunismo perché è quella cosa che mi torna sempre, capisci? Certo, però lo so che non lo sai tu adesso, no, tu adesso posso solo sei, immaginare, sei però spero che tu accolga questa cosa con sono la gioia che si deve a un lui certo. Adesso è stupefatto, sì. Ma nel 2700 certo si però vede pure dalla faccia. Esatto. Io e te fra 700 anni ci conosciamo ancora, ci vogliamo bene ancora, lo sai. Vedi. Vabbè, dai. Vabbè, grazie. Ma grazie a te, adesso grazie, io tornerò in un futuro in cui magari sono morto, capisci? Certo. E le cose si vedono ancora con più. Ma certo, ma perché il comunismo non muore mai. Certo. Ok. Certo. Okay. Tutto torna, tutto quadra. E buonanotte a tutti. Lasciamo la morte al loro destino, alla loro autostrada, al loro destino. Noi puliamo la radio, rassettiamo la radio che hanno scomparso. Il bagno è ritornato, penso. Dopo il frigo, sì. Dopo il passaggio che ha fatto Ciccio, il bagno è ritornato. Lo dico ai compagni e alle compagne, è ritornato quello di prima. Quindi bisognerà rifare. Scusate se lo dico, compagni e compagni, ho solo fatto vivi. L'ha riportato al passato, giustamente. Una vivi pesante. E quindi dai. Ci risentiamo con voi prossimamente. Dai, io mando la sigla, vi accanno così. Ciao, è bella, grazie. You can try map your destiny or just let it be. I do believe in pursue your dreams, but you can't plan the route the future breathes. I'm flying too deep, you'll never be truly free. I think I spend too much time trying to sort my life and get organized. Sort funds are light, but funds are light, and I wanna do much more than just survive on the borderline. So I strive for some order and look forward, save for my mortgage of four kids. And I got caught up with the thought that education would open the doors up, but then I thought, what if I graduate and get a job that I hate and get bored of? What if I made it in music, it caught on, and I did more tunes, got more gigs, more slots, more hit, more hop? What if I slip and I fall in love? More possibilities than you can think that can be thought of. And I don't wanna get caught up in what ifs and all that. I just wanna live life and fall back. You can try map your destiny or just let it be. I do believe in pursue your dreams, but you can't plan the route the future breathes. I'm flying too deep, you'll never be truly free. You can try map your destiny or just let it be. I do believe in pursue your dreams, but you can't plan the route the future breathes. I'm flying too deep, you'll never be truly free. Okay. Rossi, Dada, V-A-G-O, you said it, y'all, Nico Ferrara, aye, Dada, come on. ha un cuore uguale al nostro, però batte più forte. Rughe sul viso ed è il sorriso di un bastardo. Guarda la morte in faccia e la morte abbassa lo sguardo. Io le so bene le risposte che sa darmi e grido solo per la via come Giovanni da più di 30 anni. Per questo parlo, per la gente senza fiato, per chi non ha tempo e sogna un tempo indeterminato. In testa musica ma niente tra le mani, in cuffia al capolinea, piazzale dei partigiani. Scrivo per Reggio e per chi vive alla giornata, scrivo un'altra avvelenata sopra i muri della strada. Scrivo una nota e una parola, io ci credo ancora. Scrivo Cuba Libre, non intendo rum e cola. E l'ho già detto che di fatto siamo in tanti. Questa è musica, rivoluzione dentro i vostri impianti. Va oltre le parole, la vera musica va oltre le parole. Chi la tocca muore. Musica, musica, rivoluzione. Va oltre le parole, la vera musica va oltre le parole. Chi la tocca muore. Musica, musica, rivoluzione. Io scrivo rime e lascio i fogli sul mio tavolo. Non dormo né mi parlano con la voce del diavolo. Mi sveglio ad ogni testo, lo trovo diverso, più sarcastico e col plastico che cola da ogni verso. Sangue nuovo nelle arterie di questo. 1:08, primi sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Salutiamo la morte. Pensa come me e la musica ci salva. Rock the caspa come i Flash. È meglio un cerchio intorno al fuoco che il palco lontano. È meglio perdere la voce che parlare piano. Per questo è raro che scriva testi al. E andiamo quindi alle conclusioni. Pezzo di calafro. E in vecchi dischi i musicisti sanno cosa sia e perché il chitarrista vende l'anima ad un crocevia. E in vecchi dischi i musicisti l'hanno detto che la musica. Sotto le note di Kento, musica rivoluzione. Perché vi rammentiamo ovviamente la festa di compleanno di Radio Onda Rossa, 45 anni di disturbi nell'etere. 20, 21 e 22 maggio 2022, centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Brenestina 173. La tocca muore, musica, musica, musica, rivoluzione. Va oltre le parole, la vera musica, va oltre le parole. Tre giorni di festa per sostenere Radio Onda Rossa ballando, cantando e lottando insieme venerdì 20 maggio dalle ore 18 per i ROR. Dalle 21:30 in concerto Fulcro, Kento, Serpe in seno e Scasso. Sabato 21 di maggio dalle 18 a Periror. Alle 21 presentazione del documentario di Domiziana De Fulvio, Sister Wood. A seguire concerto dal Regno Unito di Orasi. In chiusura Funky Selecta. Zona 6 Vittor, Pigna Municipio 5. Sempre sul telegiornale immagino le male lingue. Torpigna ST, Serpe in seno. Sotto la nostra voce. Fitto perseguito da cui sfogano vincer. A noi ci trovi giunce a caccia come lupi. Con le pezze al culo ma non ci vestiamo. Entrambe le serate saranno. Sarà allestito il banchetto Mojito fino alle 2 di notte. Strappami sto cuore in casa. Con Siletta reggae, hip hop, cumbia, funky, live a sorpresa. Domenica 22 maggio invece. Alla finale di un sale. Dalle ore 11 live dalla SNIA assemblea radiofonica su inceneritori di rifiuti, energia, quali battaglie. Si può intervenire direttamente venendo alla SNIA oppure ascoltando la radio al telefono 06 4917 50. Dalle 13:30 pranzo sociale a sottoscrizione di Radio Onda Rossa. Trovi mille fedi sopra questo cano giallo, 100 cieli eterni. E dalle 16 assemblea pubblica sul piano Gualtieri sui rifiuti. Ci sta anche il banchetto col merchandising, così si dice. Ci staranno le magliette nuove della radio e insomma quello che rimane del vecchio banchetto. Si qui con gli infami ci fanno i nostri. Ti piace sta vita, risponde non possi. Sbagli una via, ti si fanno per ciò che indossi. Se beccani nazi li mangiano, sputano gli ossi. Voi a parlare di strade non vi ho visto mai per le strade. Hai visto mai arriverò alla finale di un talent. Bon ton, quando mi invidi busto coi piedi per entrare, ci fanno schifo le guardie e l'agenzia delle entrate. Amen. Go! Go, go. Festa di compleanno di Radio Onda Rossa, 45 anni di disturbo nell'etere. 20, 21, 22 maggio 2022, centro sociale occupato ex Snia Viscosa, tre giorni di festa per sostenere Roar, ballando, cantando e lottando insieme. Venerdì 20 maggio dalle ore 18 a Peri Roar, dalle 21.30 in concerto Fulcro, Kento, Serpe in Seno e Scasso. Sabato 21 maggio dalle 18 a Peri Roar. Alle 21, proiezione del documentario di Domiziana De Fulvio, Sisterhood. A seguire, concerto da UK di Oracy, live hip hop. In chiusura, Funky Siletta. Venerdì e sabato, Angolo Mojito, fino alle 2 di notte, con selezioni reggae, hip hop, cumbia, funky e live a sorpresa. Domenica 22 maggio dalle 11 live dalla SNIA Assemblea Radiofonica su Inceneritori, Rifiuti, Energia, Quali Battaglie, dalle 13.30 pranzo sociale a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, dalle 16 Assemblea Pubblica sul piano di Gualtieri su Rifiuti. Banchetto con magliette nuove della radio e tanta simpatia. 20, 21 e 22 maggio, CSOA ex SNIA Viscosa, festa di compleanno di Radio Onda Rossa. Via Prenestina, 173 Roma. Radio Onda Rossa, 45 anni e neanche una ruga, ma sempre senza un centesimo. Faccio rock de casba, alla fine siamo qua. Sì, chiaro che il muezzin non canta se la folla non fa. Oh la la lero la la, sto nel deserto del Sahara, senza più un goccio d'acqua, ma una cassa che ad ogni passo fa bam bam bam. Baby brucia Babilonia, chiama il 999, fanno bam bam bam bam bam. Strade vuote persi nella notte, fanno bam bam bam. Baby brucia Babilonia, chiama il 999, fanno bam bam bam bam bam. Strade vuote persi nella notte. Scusa amore, ma è da ore che cammino e qua non è Mirabilandia. Trovo uno Starbucks sotto una palma, un cappuccino grande sulla tazza. Non mi mettere il nome, scrivi vaffanculo grande, tieniti quella brodaglia. Brucia il mercato, ad ogni fine settimana mi sento troppo invecchiato. È la dittatura del sabato sera, tutti sfranti con la faccia dura mentre aspettano l'ultima cera. Fanno attento bello che la giungla qua ti mangia. Roma c'ha la pancia pronta per bambini come te. Fischia forte il vento quando non sai dove andare, ma se arrivi un poco in alto ti può affogare i pensieri. Siamo su una luna a cantare alla luna, il fuoco ci riscalda e passa la paura. E fanno bam bam bam. Baby brucia Babilonia, chiama il 999, fanno bam bam bam bam bam. Strade vuote persi nella notte, fanno bam bam bam. Baby brucia Babilonia, chiama il 999, fanno bam bam bam bam bam. Strade vuote persi nella notte. Ti hanno detto mai non ci arriverai, e poi alla fine sei arrivato prima tu. Te l'ho detto mai che ci arriverai, e so che non mi credi perché in fondo ancora. Tipo il sound della Police, fai sempre tipo la Fenice. fa festa solo chi è felice. Sì, ma fanculo la polizia. Ho quei soldi in mano, senza soldi in tasca, il tuo cuore in mano, i miei sogni in testa. Salto quel tornello, poi sta Pombarolo. Vedo che provi a contraddirmi, già lo faccio da solo. Aspetto sempre il sole tra sti palazzoni, friggiamo solitudine e ripetitori. Hai sempre visto il mondo di mille colori, ma invece tutto nero di più butta fuori. Dammi una mano in questa Babilonia, non puoi scappare dalla tua Babilonia. Trovami un angolo dove ripararmi, che ci monto il sound e ti farò sentire ancora. Bam bam bam, baby brucia Babilonia, chiama il 999, fanno bam bam bam bam bam. Strade vuote persi nella notte, fanno bam bam bam. Baby brucia Babilonia, chiama il 999, fanno bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Dammi una mano in questa Babilonia, non puoi scappare dalla tua Babilonia, dalla tua Babilonia. Oh no. Eh sì, è lento, eh. A mixare comunque, dai, ci siamo. Queste sono le conclusioni vere e proprie dopo aver ascoltato una piccola selezione. Di ora sì, fulcro scasso, serpe in seno. E Kento. Io come un pollicino lasciato senza pane, ucciso da uno stato con proiettili al letame. La bocca dignità, la triste povertà di chi ha lottato tanto per sto schifo di realtà. Anni di lavoro e di una vita a faticare per poi trovarsi in posto. Poi andatela a pescare voi, qual è la traccia giusta. Manderemo il podcast, sì, di questo delirio del mercoledì barra giovedì notte. Giocattoli, aeroplani, mentre in silenzio all'ombra ci sfilavano il domani. Noi crescevamo sani, giocattoli, aeroplani, mentre... Nel frattempo che aspettiamo che il sito risponda e cambi pagina, l'ha fatto proprio in questo momento. Vi diciamo che le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa finiscono qui. Siri, vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata, che vi terrà compagnia con le sue selezioni, con le repliche. Tutto molto random. Si riprende in diretta alle 8 di domattina con la rassegna stampa, la lettura delle prime pagine dei giornali, rassegna stampa cittadina. I redazionali della mattina dalle 10, ricordiamo. Pollicino lasciato sui miei passi e invece del mio pane trovo solo il i 31 anni di Auro Bruni, da quando appunto fu, e l'abbiamo parlato prima, di fu fatto l'assalto da parte dei dei fascisti al centro sociale occupato e gestito cortocircuito di quegli anni, e perse la vita appunto nell'incendio che ne seguì, appiccato dalla manovalanza fascista. Perse la vita il giovane Auro Bruni. Quindi dalle 14 alle 15 tutta scena cinema, alle 16 Attica Blues oltre Black Music, alle 17 Le Schiene del Sol, Bella Martis due volte, pure perché la troviamo invalidata a poter partecipare almeno negli studi della radio. Attenzione che ci

kisser. I'm counting the minutes until you're here with me, yeah. And brother, if you want to join in, please feel free. It comes everywhere, it comes all at once, below and above. From desperate times comes radical minds. I'll share our dreams under a communist.